Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Volendo tentare di racchiudere in una sola frase la definizione di che cosa sia una Smart City, possiamo forse parlare di città governata in tempo reale. Grazie a un mix di sensori, reti, persone e cose connesse a internet è infatti possibile fotografare lo stato della città in ogni momento. Traffico, inquinamento, posizione dei mezzi pubblici, consumo di energia, illuminazione stradale, parcheggi disponibili, precipitazioni e così via. Si possono poi elaborare questi dati e distribuirli a chi ne può avere bisogno per prendere delle decisioni. Gli attori del mondo dell'energia, quelli della logistica, del commercio, comuni, cittadini e naturalmente amministratori pubblici. Ma perché questa prospettiva possa realizzarsi è necessario che le città si dotino di una infrastruttura per raccogliere e fare arrivare a destinazione tutti questi dati, che proverranno da un'infinità di sensori e sistemi diversi tra loro. Ci sono vari approcci al problema e questa sera vi vogliamo raccontare del lavoro che sta facendo una startup nata nel 2013, Meterlink, che niente meno ha l'ambizione di realizzare, se ricordo bene, da qui al 2020 un'infrastruttura nazionale dedicata a questa sorta di Internet of Things delle città. Ma diamo il benvenuto a Massimo Cesaro, che è il nostro ospite, Chief Technology Officer di Meterlink. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora Cesaro, buona parte dei sensori e oggetti connessi del tipo di cui vi prefiggete di raccogliere i dati hanno alcuni aspetti in comune che si riflettono poi sul tipo di traffico che generano. Partiamo da qui. Esattamente, gli oggetti di cui parliamo, che normalmente consideriamo facenti parte dell'internet delle cose, sono caratterizzati essenzialmente per bassi volumi di traffico, spesse volte imprevedibilità nei modelli di trasmissione e la necessità normalmente di poter lavorare con potenze ed energie molto basse, in quanto si tratta generalmente di sistemi che sono alimentati a batteria. A batteria. Ecco, quando diciamo volumi bassi di traffico, parliamo addirittura di qualche centinaio di byte al giorno in molti casi, no? Quindi qualcosa di ridicolo per certi versi. Sì, parliamo di qualche centinaio di byte al giorno nei casi più sofisticati. Ci possono essere anche casi molto comuni, per esempio, non so, di cambio di stato di un sensore, per esempio una porta aperta o chiusa, che può, invece, può voler, certo, essere anche pochissimi byte in un giorno. Quindi il problema è raccogliere pochi dati da però un numero sterminato di sensori sparpagliati un po' dappertutto e che hanno poca disponibilità di potenza e di energia per comunicare. E questo vi ha portato a orientarvi su una certa soluzione tecnologica. Esatto, abbiamo scelto per questa applicazione una tecnologia che si basa sull'utilizzo delle frequenze conosciute come quelle del Wi-Fi e dello Zigbee. Che sono tra l'altro frequenze libere, quindi possono essere usate liberamente. Libere in tutto il mondo, sì? Disponibili, non soggette a licenza. Però nella declinazione di questa tecnologia hanno un impiego di potenza che è pari per esempio a un quinto di un access point di casa, fornendo però una copertura in termini di raggio rispetto all'antenna di installazione dell'access point di 5-6 km mediamente in città, con la possibilità di arrivare a punte anche di 11-12 km e soprattutto la possibilità di servire decine di migliaia di oggetti simultaneamente. E quindi come funziona poi l'infrastruttura? Ci sono due o tre livelli, no? Sì, allora l'infrastruttura prevede due livelli diciamo di installazione. Al primo livello abbiamo degli access point, che in pratica sono dei concentratori su scala urbana o metropolitana, i quali possono, anzi interagiscono normalmente con dei nodi di rete che possono essere o dei sensori diretti oppure dei concentratori di secondo livello, okay, i quali vengono utilizzati per aggregare sensori e dati provenienti da oggetti che non sono nati con questa tecnologia. E c'è un'opportunità che voi considerate cruciale per realizzare questa infrastruttura, che è offerta dalla partita del cosiddetto smart metering del gas, cioè quella cosa che è stata fatta anni fa con i contatori elettrici e che stiamo rifacendo adesso, la si fa anche con i contatori del gas, per cui un domani non c'è più bisogno dell'omino che passa di lì a fare la lettura, ma è il contatore che spedisce lui questo dato, no? E questo si sta facendo a livello nazionale su tutta Italia e per voi rappresenta, dicevamo, un'opportunità di sviluppo importante. Tenendo presente che le spese, diciamo, per la telelettura e attualmente per la lettura sono tutte spese che comunque ogni cittadino paga in tariffa, perché sono rimborsate dall'autorità, alle società di distribuzione, quindi le dobbiamo pagare. La nostra tecnologia consente di creare una rete di capacità tale per cui possiamo gestire il traffico degli smart meter, quindi il servizio del metering, ma anche avere la disponibilità per offrire moltissimi altri servizi di Internet delle cose. Quindi con il costo riconosciuto in tariffa per il servizio di smart metering, Meterlink è in grado di offrire una rete che può fare il servizio dello smart metering e molti altri servizi. Noi dal maggio del 2015 siamo presenti con un'installazione a Bari presso la società del gas di Bari, la AmGas, che fin da maggio 2015 sta utilizzando i nostri servizi di rete per la realizzazione del sistema di telegestione e telemetria del gas, ma che simultaneamente ha dato a noi la possibilità di offrire molti altri servizi di tipo Smart City ad altri operatori e alla municipalizzata. Va bene, grazie Massimo Cesaro. Grazie a voi e a presto. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata a voi tutti.